morta tanto bene, io che ti voglio sempre bene, ritorno sempre a te. Non t'affacciarsi tanto per me, Maria, bacia chi senza amore t'avrà baciata. Digli ridendo l'ultima tua bugia, digli che d'un illuso la serenata. Tu non tremar se trema la voce mia, pure ogni strada della contrada canta stanotte con me. Notte, tu che sei fatta per amare, notte, per me significhi soffrire, e soffro sai perché, sotto la luna inargentata, v'è una finestra illuminata, che non si spegne ancora. Affacciarsi tanto per te, Maria, bacio a chi senza amore t'avrà baciata, digli ridendo l'ultima tua bugia, digli che d'un illuso la serenata. Quanta tristezza, quanta malinconia, pure ogni strada della contrada sembra più triste perché... Chitarra mia, forse Maria, piange in silenzio con...